Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Si conclude oggi il mese della prevenzione contro il tumore al seno con una buona notizia. La gravidanza dopo la malattia non aumenta il rischio di recidive. La ricerca pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute fa finalmente luce su un tema lungamente dibattuto. A Obiettivo Salute il professor Alberto Luini, senior consultant della divisione di senologia chirurgica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Si tratta di uno studio molto importante perché sono state esaminate 1200 donne con tumore mammario trattato. Il dato interessante è che il confronto fra le donne che hanno avuto una gravidanza, che sono state 333 in questo gruppo di 1200 donne, non hanno avuto un maggior rischio di recidiva della malattia rispetto alle donne che non hanno avuto una gravidanza. E questo è un dato molto importante perché è una casistica molto numerosa, osservata per un numero di anni sufficiente. È importante sottolineare come anche una donna che ha avuto un tumore al seno ha oggi un desiderio di gravidanza molto maggiore rispetto al passato. Questo è legato anche al fatto che l'età della gravidanza si è andata spostando sempre più negli anni, quindi è un dato che ritengo molto importante e che abbiamo osservato anche noi negli anni in istituto e riteniamo che sia un messaggio davvero positivo da dare alle nostre pazienti. Chi non dorme non perde peso, sentire per credere. A Obiettivo Salute il professor Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Oggi noi sappiamo molto bene che dormire in maniera sufficiente, dormire in maniera regolare, fa sì che venga rilasciata una sostanza che si chiama leptina, che è molto importante perché diminuisce lo stimolo della fame. Cioè, quindi se dormiamo bene abbiamo molta leptina e quindi abbiamo meno fame durante la giornata. Viceversa, se il nostro sonno è ridotto o se la qualità del nostro sonno non è particolarmente buona, viene rilasciata un'altra sostanza che si chiama grelina e da questa grelina purtroppo parte lo stimolo a mangiare molto. Quindi è per questo importante dormire bene, proprio perché questo può contribuire a controllare il nostro peso. Per un buon sonno, ascoltate l'approfondimento del professor Ferini Strambi sulle pagine di Obiettivo Salute. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Noi invece ci vediamo in diretta video tra pochissimo insieme al dottor Stefano Erzegovesi. Parliamo di zucca e delle virtù di frutta e verdura di stagione, con consigli per abbinarle, per cucinarle nel modo migliore e portare a tavola gusto e salute. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo come sempre domani a mezzogiorno con Obiettivo Salute, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.